Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che Nebuzaradan, capo della guardia, lo ebbe rinviato da Rama, avendolo preso mentre egli era legato con catene in mezzo a tutti i deportati di Gerusalemme e di Giuda che venivano condotti a Babilonia. Il capo della guardia prese Geremia e gli disse: «Il Signore, Dio tuo, ha predetto questa sventura contro questo luogo. Ha fatto dunque arrivare ed ha operato quanto aveva predetto, perché avete peccato contro il Signore e non avete ascoltato la sua voce. Perciò è accaduta contro di voi una tale cosa. Ma ora ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene che sono sulle tue mani. Se piace ai tuoi occhi venire con me a Babilonia, vieni, ed io porrò il mio occhio su di te. Se invece non piace ai tuoi occhi di venire con me a Babilonia, rimani. Guarda, tutto il paese è dinanzi a te. Dove è buono e dove è giusto ai tuoi occhi di andare, vacci. Siccome ancora non ritorna Godolia, allora torna tu da Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha preposto per le città di Giuda. E resta con lui in mezzo al popolo, ovvero ovunque è più giusto ai tuoi occhi di andare, va». Poi il capo della guardia gli diede provviste e un regalo, quindi lo rilasciò. Geremia andò da Godolia, figlio di Achicam, in Mispa. Così abitò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese. Or tutti i capi dei soldati che tenevano il campo con i loro uomini udirono che il re di Babilonia aveva preposto nel paese Godolia, figlio di Achicam, e che aveva affidato a lui uomini, donne e fanciulli e la gente povera del paese, coloro che non furono deportati in Babilonia. Allora vennero presso Godolia in Mispa Ismaele, figlio di Natania, Giovanni, figlio di Careca, Seraia, figlio di Tancumet, i figli di Ofi, di Netofa e Iezania, figlio del Maacatita, con i loro uomini. Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, giurò loro e ai loro uomini: «Non abbiate timore di servire i Caldei. Restate nel paese e servite il re di Babilonia, e sarà bene per voi. In quanto a me, eccomi. Io abito in Mizpa, come rappresentante dinanzi ai Caldei che verranno da noi. Voi, pertanto, raccogliete vino e frutta e olio e ponetelo nei vostri recipienti e stabilitevi nelle città da voi occupate. Anche tutti i giudei che erano in Moab e tra gli Ammoniti e in Edom e quelli che erano in tutti i paesi udirono che il re di Babilonia aveva lasciato un resto in Giuda e aveva preposto su di loro Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan. Ritornarono dunque tutti i giudei da ogni luogo dove erano dispersi e vennero nel territorio di Giuda presso Godolia, in Mizpa, e raccolsero vino e frutta abbondante. Giovanni, figlio di Careca, e tutti i capi dell'esercito che erano al campo vennero presso Godolia in Mizpa e gli dissero: «Non sai che Baalis, re degli Ammoniti, ha inviato Ismaele, figlio di Natania, per ucciderti?» Ma Godolia, figlio di Achicam, non credette loro. Allora Giovanni, figlio di Careca, disse a Godolia segretamente in Mizpa: «Voglio andare e uccidere Ismaele, figlio di Natania, ma nessuno lo sappia. Perché deve uccidere te, sicché vengano dispersi tutti i giudei raccolti attorno a te e perisca il resto di Giuda?» Ma Godolia, figlio di Achicam, rispose a Giovanni, figlio di Careca: non fare una tale cosa, poiché è menzogna ciò che tu stai dicendo contro Ismaele.